Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 10 maggio 2015. Il libro è interattivo e sociale, ma i classici non muoiono. I nuovi ebook sono sempre più interattivi e sociali grazie al miglioramento tecnologico e all'integrazione della tecnologia della e-paper con la fruizione di video e altri contenuti multimediali. Gli ebook hanno aperto, dopo anni incerti, un nuovo mercato al settore editoriale anche in Italia. Oltre al cosiddetto libro a strati, che si può arricchire di contenuti proprio come avviene con la realtà aumentata, sta inoltre emergendo la tendenza dell'ebook sociale. I social network sono entrati nell'ebook, che viene così diffuso e commentato direttamente dai lettori. E questo vale anche per i classici, che dimostrano la loro vitalità anche in formato social. Fin qui la notizia del 10 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Oggi si apre il Salone Internazionale del Libro di Torino all'insegna della primavera digitale. Il futuro dell'ebook sarà al centro del dibattito. In Italia siamo ancora agli inizi, ma la crescita, per quanto discontinua, è inevitabile, come è inevitabile che sarà influenzata dalle evoluzioni di hardware e software. Lo sostiene Gino Roncaglia, docente all'Università della Tuscia e autore di La Quarta Rivoluzione, 6 lezioni sul futuro del libro. Io credo che nel 2015 saremo in pieno nella situazione della convivenza delle due modalità di lettura e quindi anche dei due mercati. Qui ci sarà un mercato digitale già con numeri interessanti, credo anche in Europa e anche in Italia, ma ancora ampiamente compreso, diciamo, con un mercato cartaceo ancora ampiamente presente. Principalmente, soprattutto le giovani generazioni, che sono abituate a un sistema di comunicazione completamente, a un ecosistema comunicativo prevalentemente o completamente digitale, ecco, per loro il fatto di avere un ecosistema digitale che comprenda bene in maniera forte anche il libro elettronico è un fattore essenziale per non disabituarle alla lettura di testi complessi. Penso che l'ebook del futuro sarà sicuramente sociale e interattivo. Noi oggi consideriamo gli ebook e in generale i libri sostanzialmente dal punto di vista del contenuto, e consideriamo questo contenuto come un qualcosa di unitario. Io ho l'impressione che progressivamente si andrà verso una situazione in cui avremo dei contenuti stratificati, con un contenuto di base che può essere il testo del romanzo, il testo del saggio, quindi il contenuto di base, su cui ci saranno, un po' come succede nella realtà aumentata, degli strati di servizio, di estensioni multimediali o di estensioni didattiche. Ecco, credo che quella sia una delle prospettive più interessanti, e tra questi strati ci saranno strati di annotazione, strati di discussione, sicuramente molti riguarderanno questo aspetto dell'esperienza sociale. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.